la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:30 primi e 42 secondi qui questo mercoledì in diretta dagli studi di Milano. Vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast della versione di Oscar. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, che ho c'è radio24.it, anche per partecipare a puntate di quella serie Italia, Italia non per giovani, di cui appunto oggi ne riproponiamo con altri due ascoltatori che ci hanno scritto per dire: in un caso sarà perché sono andati fuori e al momento ci rimangono, vedremo se poi con intenzione di restare oppure no, e in un altro caso come equalmente per i giovani professionisti, in quel caso vedremo avvocati. Beh, in questo paese è diventata in questi ultimi anni sempre più dura, e quindi spunto di riflessione per chi si dedica alla sua formazione oggi a tentare quella carriera, non solo perché il numero, lo sapete, è un multiplo di tutti gli altri paesi europei, ma anche perché ne parleremo con chi ci è passato. Ci sono dei fenomeni che hanno a che vedere su come sono organizzati proprio oggi gli studi. Tuttavia, cominciamo dal nostro primo ospite, che c'è, anche perché sullo schermo io in questo momento avevo la voce un po' così perché non vedevo comparire il suo nome, che credo sia parecchio lontano dall'Italia. Pronto? Ci sei? Gianmaria? Sì, ciao Oscar. Gianmaria, sono a Guadalajara. Sei a Guadalajara in Messico. Messico. In Messico, non proprio dietro l'angolo, per così dire. No. 13.000 chilometri. Ecco, appunto, in Messico. E ci sei da quanti anni? E ormai sono 5 anni. Allora, ripercorriamo a retroso. Di che parte d'Italia sei? Che formazione hai? Io sono nato a Rovereto, ma ho vissuto a Voghera, sì. E ho studiato lì e poi al Politecnico di Milano, disegno industriale. Disegno industriale. Dopodiché, dopo la laurea, hai trovato problemi al lavoro in Italia o no? E dopo la laurea ho incominciato a lavorare lì vicino a casa, diciamo a Voghera, in una piccola azienda che produce disegna orologi, e dopo qualche anno però non c'erano sbocchi di... Aia, cosa sei? Siamo su Skype? I giochi erano già fatti, insomma, cioè non vedevi grandi prospettive, insomma, perché l'azienda era la conduzione familiare. E a quel punto dove hai deciso di iniziare a guardarti intorno? E a quel punto io ho puntato prima di tutto alla formazione dal punto di vista della lingua, quindi con la liquidazione mi sono preso 3 mesi, sono andato a Dublino, ho fatto un college per avere un inglese a livello professionale. Perché il tuo corso di laurea al Politecnico di Milano all'epoca era ancora in italiano? Era in italiano, c'era un corso, un esame in inglese, però diciamo che quando poi affronti il mondo del lavoro, l'inglese studiato sui banchi di scuola non è sufficiente. No, certo. Quindi, ma non lo dico perché poi negli anni successivi i corsi tutti in inglese si sono infittiti, anche con qualche polemica a Milano negli Atenei. Però detto questo, e allora per la lingua sei andato a Dublino, in Irlanda, e dopodiché ne ho approfittato per lavorare un po' lì, perché comunque gli stipendi erano il doppio rispetto a quelli italiani. E sono entrato in Microsoft in un call center. Io parlavo già spagnolo, quindi mi occupavo del mercato italiano e spagnolo. È stata una bella esperienza, ma io realmente volevo fare il mio lavoro. Ma call center in Italia è considerata la specie del gradino più basso della piramide sociale ed economica del lavoro, un lavoro in altre parole enormemente frustrante, ripetitivo, tayloristico, con premi che non si raggiungono mai rispetto al contatto positivo e a seguito poi di sviluppo da parte del cliente. Tu invece in quel call center tecnico di Microsoft ti sei trovato bene? Sì, perché era un consulter tecnico, e comunque era su gaming, sull'Xbox, è stato interessante, era un mondo che non conoscevo, comunque si lavorava in un open space con gente di tutto il mondo, e non era stressante, particolarmente stressante il lavoro. Ti pagavano bene e per un po' di tempo sono rimasto lì cercando comunque sempre sbocchi in quello che volevo fare, che è sempre stato il lighting, l'illuminazione. E dopodiché, per una questione, un problema familiare, torno in Italia e come sempre mia madre mi dice: fermati qui, cerca lavoro qui. E io le ho detto: guarda, io cerco lavoro 6 mesi, se non trovo quello che voglio fare me ne vado un'altra volta. E non l'ho trovato. È andata così. No, sì, sono arrivato a un passo, ad avere una buona posizione, seguendo lo sviluppo di alcuni prodotti in Decathlon, però all'ultimo colloquio tra me e un'altra ragazza del Politecnico hanno scelto l'altra. E quel giorno lì ho comprato il biglietto aereo. Hai comprato il biglietto aereo per andare in Messico? Per andare in Messico. Io avevo due possibilità, una era in Asia e l'altra era qui in Messico. Quando dici possibilità ci fai capire, che cosa vuol dire possibilità? Avevo già dei contatti, avevo già cercato, insomma avevo fatto una ricerca preventiva su dove i paesi e le città su cui puntare per poter avere possibilità di mercato, diciamo. Cioè dove era forte la presenza degli stretti con aziende e specializzazione che erano quelle in cui volevi mettere a frutto quello che sapevi. Dove c'era la possibilità di fare questo lavoro, perché magari non c'erano tanti competitor sul territorio. Quando dici Asia, qual era l'alternativa? Singapore. E tu queste aziende, queste possibilità le avevi già contattate a distanza, avevi mandato il curriculum? Sì, avrò mandato migliaia di curriculum, penso, e varie chiamate via Skype. Alla fine ero arrivato a queste due possibilità che mi piacevano anche, insomma, dal punto di vista umano, no? Ti posso fare una domanda prima di capire come ha funzionato in Messico? Nel percorso fino ad allora, cioè laurea 3+2 al Politecnico di Milano, l'esperienza dei primi anni in un'azienda, conduzione familiare vicino a casa, poi quando vai a Dublino rientri, non trovi soddisfazione e a quel punto hai, dopo aver fatto un'intensa attività di scouting nel mondo, perché di questo si tratta, arrivi con le due chance e decidi per quella del Messico. In tutto questo percorso è stata decisiva una famiglia alle spalle che aveva mezzi e risorse finanziarie per portarti fino al primo lavoro senza nessun problema, oppure da quel momento in poi comunque hai sempre dovuto lavorare? Cioè, che tipo di famiglia è la tua? In alto nella piramide dei redditi italiani o una media normale famiglia italiana? Ma la verità è che durante l'università sì, mi hanno sempre appoggiato, io ho sempre lavoricchiato, però diciamo che dal mio primo lavoro in poi sono sempre stato autosufficiente. Insomma. Autosufficiente. Allora, e parti per il Messico? Parto per il Messico e inizio l'avventura, e diciamo da un'azienda, in un'azienda che qui è molto conosciuta, però ha fatto un grande lavoro di marketing. Realmente dal punto di vista dei contenuti non era soddisfacente per quello che io volevo fare, no? Perché comunque l'illuminazione ci vogliono. È sostanziale avere dei prodotti di livello, lavorare in un certo modo. Ma quando tu dici illuminazione, facciamo capire che casa, parli di un'illuminazione complemento d'arredo casa o illuminazione di tipo industria? Ma diciamo che sono un po' tutti i rami, no? Tutti i rami, dallo stradale al residenziale, che diciamo me ne occupo un po' meno, e all'industriale. Sì. Il port sono centri storici, edifici, industrie, parchi industriali, cose di questo tipo, insomma, dove anche l'aspetto energetico è importante. Ma tu questo tipo di azienda sei andata a ricercarlo a Guadalajara in Messico perché in Italia ci sono, come no, ci sono anche in Italia, però in Italia era tutto chiuso a tuo giudizio? Io realmente in Italia non riuscivo a entrare, perché comunque mi facevano passare sempre per 40 colloqui con i vari cacciatori di persone, di professionisti, e due, anche gli stipendi, non mi sembravano quelli che io... Quelli adeguati. Mentre di Dublino non mi sembravano in linea con quello che io volevo. Ti aveva alzato l'asticella. Mentre lì, scusa, lo stipendio? mentre qui lo stipendio di un professionista che fa guadagnare alla sua azienda è sicuramente in linea con il lavoro che fa, insomma, questa è la verità che io ho trovato qui. Ma fammi capire, è interessante, voglio dire, a parità di potere d'acquisto rispetto alla curva dei costi, non solo della vita, in Messico, o è interessante anche in maniera comparata? Cioè, diciamo che interessante a maniera comparata lo diventa quando già l'azienda è la tua. Prima sicuramente vivi meglio, perché comunque il potere d'acquisto è diverso, questo è sicuro. Però fa parte di quello che stavo pensando io, insomma, fa tutto parte dell'idea che mi ero fatto anche prima e che mi avevano spiegato della situazione in questo mercato. E qui ti sei trovato bene? Sì. Mi sono trovato bene e ho continuato a lavorare in un'azienda che ho cambiato, in un'azienda che è partner di una grande multinazionale francese, Citelum, dell'illuminazione, qua a livello locale, e lì sono cresciuto fino ad avere i progetti, insomma, più grandi di questa azienda, me li davano a me. E dopodiché, nel giro di pochissimo tempo, sugli standard italiani delle aziende di quel tipo? Sì, sicuramente, insomma. Anche perché diciamo che noi abbiamo sicuramente il percorso di studi che ho fatto, non esistendo qui, tuttora, mi ha aiutato molto, no? Perché comunque, insomma, io ho visto che quello che, anche se sono passati anni, quello che ho imparato poi mi ha servito molto. Quindi ottimo giudizio sulla scelta che hai fatto retrospettivamente, ad andare al Politecnico a fare disegno industriale, al Politecnico di Milano, si è rivelata una chiave multiporta, però si è rivelata proprio in quel settore che era quello che volevi tu, quindi questo è una... Certo, in cambio il Messico, ma fammi capire, nelle tue prospettive sei lì per restarci, sei lì per tornare, che giudizio hai a distanza dell'Italia e di chi è tuo coetaneo e non ha fatto scelte analoghe, che pensi? Ma è un giudizio difficile darlo sugli altri. Io posso parlare della mia esperienza. E io 2 anni fa ho aperto un'azienda, sono uscito dall'altra, ne ho aperta uno, ho 2 partner aziende italiani, come partner 2 aziende italiani, una è Lightec e l'altra è Platec, e con questa prospettiva io voglio sempre lavorare di più anche con l'Italia, quindi la mia idea futura è sicuramente mai lasciare questo paese, che mi dà tanto e mi piace, però avere sempre anche più la possibilità di tornare. La famiglia come l'hai sistemata? La famiglia io non ho moglie, non ho figli, quindi diciamo io non ho molti problemi. Però, insomma, la mia famiglia, i miei genitori, mia sono sorella, contenti. La mia famiglia stanno tutti in Italia, insomma, io cerco di tornare il più possibile anche da quel punto di vista. Però, diciamo la verità, questo grande impulso a sentire il bisogno di riportare qui la tua esperienza, per il momento non mi pare che ci sia. No, realmente no, la vedo più a futuro, sì, quando si cominceranno. E del Messico in quanto tale, che finisce per i giornali italiani solo naturalmente per le cose che riguardano il narcotraffico, le polemiche con Trump, gli immigrati eccetera, invece nella tua esperienza? Ma qua ci sono zone, il Messico è grande, ci sono tanti stati, alcuni stati sono off-limits e altri invece si lavora benissimo e sono tranquilli. Dipende molto, insomma, qua dove lo Stato è debole sono forti loro, insomma, è una storia che noi abbiamo già vissuto. Sì, però ecco, dove operate voi la legalità è accettabile? Sì, è sicuramente un territorio che bisogna conoscere, perché se non si conosce può essere anche pericoloso, però conoscendolo e informandosi il livello di vita è buono. E con le istituzioni e anche l'establishment, stiamo parlando di un ambiente di impresa locale, problemi di qualche tipo? No, realmente no, e questo è uno degli aspetti che più tristi secondo me di quando faccio dei paragoni con l'Italia, perché qui è tutto molto semplice. Non tutto, ti chiedo, diciamo, quanto tasse sul reddito lordo di impresa paghi? Sul 30, 30. Sul 30. Capite che in Italia siamo al 64,8%. Questo mi pare che dica molto, per così dire, molto. Non dico tutto, ma molto, perché è ovvio che non si va via solo per il fisco. Però, visto che poi uno arriva alla sua giovane età, con i canoni italiani, è giovanissimo ancora, Gian Maria Zanamboni, dopo tutta questa esperienza di avere un'impresa propria, in cui associa anche imprese italiane, capite che poi a quel punto inizia a fare la differenza, perché si può investire di più sulla quota di reddito lordo se lo Stato se ne prende di meno. E qui stiamo parlando di meno nell'arco dei 34 punti di reddito lordo, 34 in meno, pensate un pochino quante cose si possono fare. Allora, io ringrazio Gian Maria, è ovvio che ai nostri ascoltatori fai la parte del marziano, cioè sembri uno che dice, buh, ma com'è, le hai inanellate tutte, eppure non credo che Gian Maria, quando è uscito con la laurea in mano, immaginasse tutto questo. L'ha tenacemente voluto, e questa è semplicemente un'altra dimostrazione di quella parte di Filone di Storie che vi proponiamo, in cui si dimostra che a immaginare tenacemente una cosa che però è coerente alle scelte che uno ha fatto prima, nel mondo, come vedete, ci sono molte occasioni invece che star qui solo a piangere. Grazie Gian Maria, abbracci e auguri per tutto quello che ti aspetta. Dopo un minuto di informazione sulle strade, torniamo invece con le esperienze che riguardano i giovani in Italia, nel mondo degli studi di avvocati. La versione di Oscar. This is the end. Eccoci qui tornati dopo le informazioni stradali, abbiamo anche il secondo ospite in linea perché c'è lo schermo che fa le bizze, sì ce l'abbiamo. Allora, io ringrazio di aver scritto e di essersi resi disponibile a questa testimonianza, Simona Gautieri, che è collegata con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. No, perché se sentivamo in maniera un po' metallica, tant'è che sembrava che avessi un fortissimo accento sardo. Questo mi appartiene. Cagliari non l'ho abbandonato. Non era la deformazione della linea telefonica. No, è proprio il mio modo di parlare. Allora, io sono rimasto molto incuriosito dalla lettera, perché Simona ha svolto anni di attività nel mondo forense. Sì. Ecco, e a un certo punto hai deciso, per una tua passione, alla quale auguro molto molti successi, però io sono molto scettico, perché vuoi fare una cosa che secondo me, non te la devo spiegare, ma incontro mi è stato detto, a molti eccessi di personale, perché se vuoi fare la giornalista, guarda, adesso parlarne con uno che sta al Gruppo Sole di questi giorni non è il caso, perché noi sentiamo delle campane funebri sulle nostre teste. Però detto tutto questo, ti auguro ogni miglior fortuna, ma il punto è invece che ciò che ai miei occhi è prezioso delle storie che lei scrive è la realtà vera vissuta per i giovani proprio dopo conseguita la laurea eccetera eccetera negli studi professionali, cioè com'è la descrizione di com'è davvero la vita dei giovani che iniziano la loro esperienza professionale e per anni e anni negli studi professionali devono sbattere il muso con una condizione che vorrei ci descrivessi un pochino, Simona. Sì, posso parlare direttamente per la mia esperienza, però premetto che la mia esperienza è col paradigma di quel che capita, posso dire non nella totalità perché non ho questa presunzione, però nella maggioranza degli studi legali. Diciamo che uno studente di giurisprudenza arriva all'ambita laurea, non è così facile. Se vuole intraprendere la carriera forense, fa 2 anni di praticantato, certo. Il massimo che può trovare è un piccolo rimborso spese, 200-300 euro, o lavorare gratis. Si arriva, dopo i 2 anni di pratica, a sostenere un esame di Stato, certo, che ha la lunghezza di un anno, se non un anno e mezzo, dipende dai tribunali a cui si appartiene, al foro a cui si appartiene. Diciamo che la difficoltà di un concorso pubblico, sì, pur sì, essendo una semplice abilitazione professionale, certo. Dopodiché ci si ritrova col titolo di avvocato. Sì. Il sogno che diventa realtà, si pensa di aver, pagato il tributo con la gavetta fatta da praticante. Si spera di poter spendere una professionalità che comunque si è acquisita, perché da che una persona, per quanto brava, riesce ad abilitarsi, sono passati qui minimo 4 anni, 4-5 anni, insomma, perché capita anche ai più bravi di ripetere l'esame. Così si rimane, oppure si spera di trovare uno studio legale dove che possa apprezzare appunto la professionalità, dove spendere un titolo, sempre nell'ottica di imparare, chiaro, e invece si sbatte il mondo contro la realtà. La realtà è un limbo dove un avvocato è obbligato ad essere un libero professionista, ma di fatto trova un rapporto di collaborazione professionale che è sottende un lavoro subordinato che non è però contrattualizzato. Esatto. Cioè, quindi può capitare molto frequentemente, sì, io sì, leggo qui, levando riferimenti a nomi, sì, che dopo 10 anni di professione, sì, alle spalle, ci si ritrovi a fare ancora da factotum al proprio, sì, dominus di studio, cioè, traduciamo per chi non lo sa, a redigere gli atti con la sua firma, ad andare in udienza al suo posto e insieme a pagargli le bollette alla posta, andare a prendere il figlio a scuola, eccetera eccetera eccetera, il dominus riceve i clienti e i soldi, ma a quel punto gli altri avvocati factotum giovani, ma dopo anni e anni, in realtà sono loro a svolgere l'attività forense. Peccato che da professionisti non caratterizzati come dipendenti, a quel punto per loro ci sono poche centinaia di euro al mese. È così, cioè, nel senso, ripeto, ci sono studi più o meno illuminati, io non voglio dire che tutti i domini siano così, però posso dire che la maggior parte dei casi, almeno nella mia esperienza, avendo io stessa per lavoro cambiato 3 fori, conosco colleghi che vanno dal nord Italia al sud Italia, le lamentele, ma anche semplicemente raccolte, facendo la fila dagli le file interminabili dagli ufficiali giudiziari, le lamentele sono sempre le stesse. Poi ovviamente c'è chi ancora anni e anni senza arrivare, tanto per fare un ordine, sì, di cifre, a 1.000 euro al mese. Sì, sì. Beh, 1.000 euro diciamo che è, come dire, è una metà vita. Io a 40 anni suonati prendevo 700 euro, che mi sono stati anche detratti le vacanze natalizie e il periodo che ho dovuto passare a casa in malattia. Quindi sono arrivata anche a 400. Poi nelle storie che racconti, che sono molto dettagliate, cari ascoltatori, ci sono poi dei particolari che hanno a che vedere anche con le vite personali, con il fatto che malgrado questi trattamenti i ritmi di lavoro sono intensissimi, perché poi si resta indietro sugli atti di cui poi si devono occupare appunto i cosiddetti giovani di studio, giovani anche se poi hanno età che non dovrebbero essere considerati tali, eccetera eccetera. La domanda che ti faccio è: l'ordine nei confronti di questa realtà così sistemicamente diffusa, sia pure con l'eccezione, per carità, fa qualcosa? Rispondo di no, mi assumo, diciamo, la responsabilità di questa risposta. La mia risposta è anche motivata, perché per esempio rispetto all'articolo che io ho scritto, che è pubblicato sul giornale online per il quale collaboro, l'ordine degli avvocati del foro a cui io mi riferivo ha specificato, è un articolo che abbiamo pubblicato nello stesso giornale, quindi lo possono leggere tutti, ha specificato che il compito dell'ordine non è in pratica vigilare su questi comportamenti, ma fornire una vigilanza sulla prestazione che l'avvocato fornisce al cliente, in parole povere, vigilare che la parcella dell'avvocato, insomma, non superi le tariffe prestabilite. E la mail, cioè l'articolo, si conclude da parte del presidente dicendo che in pratica la libera professione è così: se in uno studio non va bene, se ne cerca un altro. Io ricordo a tutti che naturalmente il tuo fatturato come professionista in quelle condizioni può essere anche di poco superiore allo zero, ma comunque i 3.000 euro poi alla cassa forense di contributi obbligatori devi pagare. La cassa forense è la nostra cassa previdenziale. Io stessa, per esempio, non esercitando più, pur conservando il titolo, non posso esercitare perché ovviamente non sono appoggiata a nessuna cassa previdenziale. Tra l'altro sono cifre che sono salite anche negli anni. A fatturato zero si paga quasi 3.000 euro. ovviamente una persona che non lavora non se lo può permettere. Come cito alcuni dati nel mio articolo, a fronte di questo e di altre innovazioni che ci sono state nel sistema giudiziario forense, a fronte di 246.000 avvocati in Italia, ben 8.000 si sono cancellati in un anno, nel 2016. Esatto, sicuramente. Ma c'è un dato che io, a chi è giovane o è padre di un giovane iscritto a giurisprudenza con l'idea di fare un avvocato, questo dato rifletteteci: su quei 246.000 avvocati, secondo le cifre, la cosa terrificante è che i 56.000 sotto i 40 anni non riescono a risparmiare neanche 10.000 euro l'anno, cioè hanno dei redditi così eccetera. Molti addirittura sono ancora a carico delle famiglie, in realtà, rispetto a quello che guadagnano. Allora, io non posso che dire, Simona ci ha provato per anni e io spero che il giornalismo gli dia maggiori soddisfazioni, però questo è un pezzo di realtà che descrive che cos'è l'Italia per i giovani, anche quelli che hanno superato l'abilitazione, hanno studiato tantissimo, eccetera, eccetera. A me questa cosa fa schifo e io ringrazio Simona e tutti quelli che come lei ci provano comunque. Continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mina domani mattina alle 8:20, attenti a noi due.